9 in punto. La politica nel tunnel. Come avete sentito, buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia, per questo periodo, per questi giorni è cambiata la nostra sigla perché ogni giorno, a prescindere dall'argomento che andremo a trattare, oggi ve l'abbiamo annunciato poco fa, andremo in Grecia. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo nel paese dal quale abbiamo spostato i riflettori da troppo tempo e che sta vivendo, secondo alcuni, secondo il presidente di Médecins du Monde, una crisi umanitaria. E insomma, è un paese europeo e sta vivendo una crisi umanitaria, si usano queste parole ormai. Cercheremo di scremare anche quelle che sono le notizie vere, quelle che sono state diffuse ad arte, quelle circolate in maniera impazzita nei blog. E però ogni mattina, comunque, a prescindere dall'argomento trattato, cercheremo di darvi un punto politico in una situazione molto difficile. È quella che conoscete, la situazione politica italiana. Tra un paio di settimane circa, anche meno probabilmente, verranno convocate le Camere. Il Presidente della Repubblica sta pensando, sta riflettendo, questi sono gli aggiornamenti delle ultime ore, se farà arrivare prima la convocazione, il 12 marzo invece del 15, che consentirebbe, sembra poco, sembrano pochi giorni, ma sarebbe un martedì, questo consentirebbe di fatto di guadagnare già una settimana. Il punto politico continua a raccontarci di un Pierluigi Bersani che rimane fermo su quella che è la sua posizione, chiede sostanzialmente l'incarico. Insomma, il Presidente della Repubblica ci dia un incarico, dia l'incarico a me, e poi su una serie di punti, 8 punti, tra cui alcuni probabilmente condivisibili anche dal Movimento 5 Stelle, mi vado a cercare la fiducia in Parlamento. In retroscena, perché dal Quirinale nulla di ufficiale abbiamo al momento, ci raccontano invece che Giorgio Napolitano non sarebbe di questo avviso. L'idea di Napolitano sarebbe invece quella di fare una sorta di governo del presidente, per certi aspetti simile a quello che abbiamo avuto nell'ultimo anno, non un governo tecnico però, ma appunto un governo del presidente. Dando l'incarico a chi? Questo non è per nulla chiaro. Su questa seconda ipotesi, sull'ipotesi di Napolitano, sarebbe a quanto pare orientato anche Silvio Berlusconi. Ancora sui retroscena siamo, perché necessariamente è un periodo di questo genere nel quale anche a queste cose bisogna stare dietro, notizie non confermate. Anche Silvio Berlusconi sarebbe per questa ipotesi, immaginerebbe, dicono alcuni, addirittura un governo di area, con personaggi di area, e quindi non persone direttamente legate ai partiti, ma persone appartenenti all'area dei partiti, un po' come succede, tanto per farvi un esempio e per renderla più semplice, un po' come succede nei consigli d'amministrazione RAI. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle cosa fa? Il primo partito del paese ha riunito ieri i suoi parlamentari, cioè si sono riuniti in un albergo, l'avete sentito, ve l'abbiamo raccontato nei giornali radio e anche nella rassegna stampa. Non c'è stato uno streaming live di questo incontro, forse anche perché era il primo incontro. Oggi Grillo e Casaleggio dovrebbero incontrare appunto questi nuovi eletti a Roma. Nel frattempo Grillo continua a farsi sentire dal suo blog. L'uscita di ieri è contro la libertà di mandato che la Costituzione assegna ai parlamentari. Libertà di mandato che nelle sue origini, intenti molto nobili naturalmente, che sono quelli per cui il parlamentare non deve agire per il suo eletto, ma deve agire per il bene dell'intero paese. Certo, questo ha portato a delle distorsioni e Grillo le sottolinea, però insomma, l'idea di Grillo invece è che debba rispondere direttamente a chi lo ha eletto il parlamentare, quindi naturalmente quello su cui si concentra Grillo sono i cambi di casacca. Questo il punto politico di giornata, in attesa naturalmente di novità, ce ne sono continuamente, aspettiamo appesi tra l'altro a internet, insomma, a post su Facebook o sul blog di Beppe Grillo. Ultima segnalazione, naturalmente, sono i movimenti di Matteo Renzi in queste ore, che a quanto pare ha riunito i suoi, però insomma le intenzioni non sono per nulla chiare, perché non è per nulla chiaro quello che succederà. C'è chi parla di un voto a breve, entro giugno, c'è chi dice se si vota a giugno lo fa Stefano Fassina, responsabile economico del PD, il candidato sarà di nuovo Bersani. Questo è il quadro, ora ci occupiamo di Grecia. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 9 in punto l'hashtag su Twitter. Dunque, qualche notizia. La concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria di Atene la settimana scorsa era 15 volte quella raccomandata da Bruxelles. Perché? Perché ci sono delle tasse pazzesche sul gas da riscaldamento e ci si scalda a legna. Notizia della settimana scorsa: la Svizzera dimezzerà le forniture di sacche di sangue alla Grecia entro il 2020. Motivo? Non viene pagata, non ci sono i soldi. Poi notizie più difficilmente confermabili: svenimenti di bambini per malnutrizione nelle scuole e nei supermercati viene venduta anche merce scaduta. Notizie confermate: la Chiesa ortodossa distribuisce 250.000 pasti al giorno e negli ultimi 2 anni i suicidi sono aumentati del 40% e sono aumentati anche i casi di depressione. Fabio Giardina, medico italiano in Grecia, nell'isola di Samos, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno Dimitris Mamaloukas, scrittore greco. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Si trova ad Atene, tra l'altro. Tonia Mastrobuoni, giornalista della Stampa. Buongiorno Tonia. Buongiorno a voi. Che è persona che ha frequentato molto la Grecia in quest'ultimo anno, ha seguito da vicino la crisi. Scremare innanzitutto, Tonia, aiutaci tu a scremare qualcosa di quello che leggiamo, delle notizie in arrivo dalla Grecia, di quello che vediamo nei blog, su naturalmente siti internet dai quali appunto c'è un po' di tutto, ecco. Prego. Sì, no, infatti questa notizia per esempio degli svenimenti a scuola io la leggo dal 2009, dal 2010 anzi, quando è cominciata ufficialmente la crisi greca, è una notizia che circola e che torna un po' come un fiume carsico, però effettivamente noi dobbiamo immaginare che dal 2009 a oggi è sparita il 20% dell'economia greca, cioè come se in Italia sparissero improvvisamente l'equivalente di 300 miliardi di economia, cioè è un paese totalmente devastato da una crisi che non sembra avere fine e appunto non ci sono spiragli di luce, cioè è sufficiente guardare, come dire, ai numeri ufficiali, il tasso di disoccupazione al 27%, di questo tasso di disoccupazione il 62% è costituito da disoccupazione giovanile, è una crisi senza fine. Poi avendo una struttura sociale abbastanza simile a quella italiana, i giovani cosa fanno? Non hanno coperture, quindi tornano a casa. È ricominciata la migrazione verso paesi appunto più ricchi, un po' come negli anni 50 e 60, quando persino Tonia, persino leggevo su Ekatimerini, che ha una versione online in inglese, che persino ci sono degli insegnanti che stanno emigrando a Cipro, che non è che sia proprio messa benissimo, insomma. No, ma ti dirò di più, ci sono addirittura gli immigrati che sono andati negli anni 90 in Grecia, no? Gli albanesi, per dire, che sono venuti anche in massa da noi, stanno tornando a casa perché gli conviene molto di più, non so, tornarsene a casa, coltivarsi magari l'appezzamento di terreno che hanno di famiglia, piuttosto che stare in Grecia e dover non solo avere a che fare, cioè concorrere con i greci che ormai impoveriti appunto accettano qualsiasi lavoro, ma il problema è anche questa enorme e crescente ondata di xenofobia che attraversa la Grecia, e lo vediamo anche lì nei numeri, perché sappiamo che il partito neonazista, perché questo è, di Alba Dorata, è entrato in Parlamento e prima di entrare in Parlamento è entrato trionfalmente nel Consiglio Comunale di Atene, poi appunto Mamaloukas ci confermerà un pochino forse questo, e loro lo hanno fatto d'un lato gridando all'allarme sociale, all'allarme, come dire, sicurezza, all'allarme, no, istigando l'odio contro gli immigrati, dall'altro offrendo da anni di servizi come per esempio il fatto di accompagnare, cioè prima come dire, mettere paura alle persone, e poi Alba Dorata ha offerto a queste stesse persone di, non so, di accompagnarle al bancomat, no? Sì. Quindi, come dire, questi sono segnali tangibili di un peggioramento della situazione, e in questo peggioramento della situazione la politica non è stata minimamente in grado di rispondere. Voglio ricordare che il PASOK, il partito appunto socialista greco, per anni ha rincorso un po' una politica da sceriffi, no? Contro per rincorrere un po' la destra, e questo è stato evidentemente sbagliato, perché non ha fatto che peggiorare il quadro per certi versi. Voglio andare proprio da Dimitris Mamalukas. Tra l'altro, citava Tonia Mastrobuoni Alba Dorata. Ebbene, c'è una notizia che mi ha colpito moltissimo, anche questa di pochi giorni fa. È stato un annuncio della stessa Alba Dorata. Hanno iniziato a dare lezioni a bambini tra i 6 e i 10 anni, insomma, sulla nazione e sugli ideali greci. Teniamo presente che questo è un partito neonazista. Hanno preso 20 bambini per dargli lezioni negli uffici del partito ad Artemida, est dell'Attica, che è la regione di Atene. Ed è una notizia di sabato. Dimitris Mamalukas, il quadro da Atene, le chiedo più episodi concreti che racconto generale, perché vogliamo aiutare anche i nostri ascoltatori a capire che cosa sta effettivamente succedendo. Ma Tonia Mastroboni ha parlato di tutto, ha detto tutta la verità. Adesso un quadro molto più chiaro da quello che posso raccontarvi io. Scusate il mio italiano, che è da anni che non sto in Italia. Ci sembra eccellente comunque, no, prego. Grazie. No, la situazione è come l'ha descritta la signora Mastroboni. C'è la crisi ovunque. Che pensioni e stipendi sono calati, diciamo, meno la metà, la gente cerca di, cioè, tutti spendono i soldi che avevano in banca, avevano tenuto per le situazioni difficili, diciamo. Per quanto riguarda l'Alba Dorata, la situazione è molto severa. Quello che ha detto per la lezione, c'è girata una foto su Facebook, sull'internet, penso che è vero, no, però non sono sicuro 100%, perché ci sono molte notizie che sono false, che girano, non dico per questa precisamente, però altre notizie, altri le negano, altri le confermano. Distribuiscono cibo nelle periferie, vero Mamalukas? L'Alba Dorata hanno dato cibo una volta, due mi pare, nelle piazze, che è andata una signora che non era greca e l'hanno mandata via. Questo è vero, è successo davanti alle telecamere. Dal lato della situazione proprio ad Atene, abbiamo citato poco fa il dato dell'inquinamento, no? Sì, riscaldarsi si usa la legna, anche si usa la legna, qualsiasi legna che trovano, questo è vero. Si sente la sera lo smog, lo senti, l'odore In tutti i tuoi quartieri di Atene, anche quelli più ricchi, diciamo. Anche mobili e alberi dei parchi, no? Sì, questo è vero. Questo è vero, hanno abbattuto alberi del parco, sì. Ecco, poi c'è, dato che tanto se ne è parlato in Italia, c'è questa tassa sugli immobili. Insomma, ci siamo sentiti prima della trasmissione, nei giorni scorsi. Sì. Lei mi raccontava una battuta che circola là, sì, in Grecia, sì, no? Dice il padre al figlio, ti stai buono o ti lascio la casa in eredità? Perché il figlio non può mantenere la casa, cioè, se la casa è molto grande, diciamo è più di 100 metri, cioè, la tassa è 700-800 euro all'anno, più qualsiasi altra cosa. Fabio Giardina è un medico, come abbiamo detto, è a Samos, che è un'isola greca, la condizione è naturalmente a questo punto diversa da quella della capitale, come sempre succede nei paesi in crisi, insomma, no? La crisi si sente più forte evidentemente nella capitale, in un'isola dove c'è anche turismo la percezione della crisi è diversa, e però Fabio Giardina, che lavora nel settore pubblico, medico nel settore pubblico, ci può aiutare anche a capire com'è la situazione dei medicinali. Abbiamo letto la settimana scorsa del presidente dell'Associazione Farmacisti Greca che diceva abbiamo un livello di forniture, il livello di forniture è calato del 90% dei medicinali, ma a questi livelli siamo, Giardina? Sì, siamo a questi livelli. Prima di tutto negli ospedali sono quasi scomparse le forme farmaceutiche originali, ci sono tutte queste, diciamo, imitazioni di dubbia efficacia, che hanno anche per legge, possono avere anche il 20% di sostanza attiva in meno, e ci sono continuamente dei problemi di fornitura per gli ospedali. Vengono risolti, certo, non rimane mai l'ospedale senza farmaci, cioè non muore, per il momento non è morto nessuno per mancanza di medicinali, però insomma la situazione è drammatica anche per noi medici, perché è una situazione di stress continuo la mancanza di medicinali, ma anche di materiali chirurgici, materiali sanitari in generale. E per quanto vi riguarda, come dipendenti del settore pubblico, anche là decurtazione degli stipendi fortissima, no? Sì, decurtazione degli stipendi. Se vuole una mia testimonianza personale, io fino a 3 anni fa prendevo intorno ai 3.200 euro al mese e pagavo e non pagavo tasse, perché avevo anzi un rimborso dalle trattenute dal suo stipendio. Adesso prendo 2.200 e pago 4.200 di tasse l'anno, per il quale bisogna, tutti ormai le tasse prendono i prestiti dalle banche per pagarle, oppure le pagano col fido bancario. E, insomma, la situazione è questa. E comunque anche un dato, diciamo, sugli ospedali, che il settore pubblico, sì, certo, qui a Samos la crisi si vede di meno, però noi che lavoriamo nel settore pubblico la sentiamo e vediamo anche la mancanza di personale, che è uno dei problemi fondamentali. Le do un dato: nel 2012 negli ospedali pubblici ci sono stati 4.285 pensionamenti di personale in generale, infermieri, medici, e ci sono state 153 assunzioni, cioè con un rapporto di 1 a 25, per cui potete capire la situazione degli ospedali com'è. E poi di pari passo va un aumento enorme della pressione sugli ospedali dalla gente, perché la gente non ha più soldi per andare ad ambulatori privati oppure cliniche private, e perché hanno oltretutto parecchia gente degli strati medio-alti ha disdetto le assicurazioni private. La fermo per adesso, Giardina, perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria. Voglio solo segnalare qualche ascoltatore che ci scrive su Twitter. Allora, non fermiamoci alla questione tecnica. Paolo, che ci dice che inquini maggiormente bruciare legna che idrocarburi, è difficilmente credibile. No, è credibile, perché se gli idrocarburi li bruci con una caldaia fatta bene, inquinano meno che se usi solamente la legna. Questo è quanto. Però I dati sono là a dirlo, guardi, non c'è niente da fare, il traffico ad Atene è diminuito in maniera nettissima, e però c'è un maggiore inquinamento da PM10, quindi non, questi sono dati, non c'è niente da fare. Ci scrive invece l'Alce su Twitter: quando servì a giustificare l'austerity, Grecia ovunque, da quando è la dimostrazione che l'austerity non funziona, è sparita. Come vedete, ne stiamo parlando, e il tema naturalmente è anche quello, l'efficacia dell'austerity. L'abbiamo tanto celebrata nel momento nel quale c'era da dire ai greci: avete truccato i conti, adesso dovete pagare. Poi adesso però ci accorgiamo che qualcosa evidentemente non funziona, che insomma qualche meccanismo in tutto questo è da rivedere, che deficit e debito evidentemente non sono i soli parametri. probabilmente un pezzo del voto, l'abbiamo detto spesso, un pezzo del voto italiano è stato anche la risultante di questo ragionamento. 9 in punto. E poi certo c'è anche il Portogallo, ce lo segnalate via Twitter. Oggi tra l'altro considerate che l'apertura dell'edizione europea del Wall Street Journal, perché sta cercando il Portogallo di rinegoziare parte dell'accordo di bailout, di salvataggio con l'Unione Europea, perché le previsioni parlano di un accelerare della recessione. Ne discuteranno oggi i ministri finanziari dell'Unione Europea. Nel frattempo, notizia di cronaca, e vi diamo perché insomma non l'abbiamo messa omessa all'inizio, la Troica, la famosa Troica, è di nuovo ad Atene in queste ore, arriverà in queste ore, insomma, per discutere ancora di termini di fornitura di denaro. Qualche ascoltatore, Marco ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. È imbarazzante il silenzio che si è creato intorno alla Grecia, ai problemi della Grecia stessa e di tutto il popolo greco. Oggi sento questa trasmissione, diciamo che mi fa piacere, già un tweet di un altro ascoltatore dice che questo silenzio assordante rimbombava veramente. Ora si sta parlando della crescita esponenziale di Alba Dorata e delle problematiche che il popolo greco vive, la mancanza dei farmaci, le problematiche alimentari, eccetera, eccetera. Questi sono tutti aspetti, sappiamo bene, di una crisi che è questa austerity voluta dal governo europeo, della Banca Centrale, del Fondo Monetario Internazionale, stanno determinando. Ma mi sembra che questa cura che dovrebbe portare fuori la Grecia dal guado non sta avendo nessun effetto positivo, ma ogni giorno è sempre più critica la situazione. Ora mi domando, se questa esperienza austerity, e vediamo i risultati della Grecia, si sta propagando anche al Portogallo e a quanto pare in maniera anche forte in Italia, cosa ci dobbiamo aspettare? Questa è un'ottima domanda, io poi la voglio girare a Tonia Mastroboni, ma voglio sentire nel frattempo anche Yorgos che ci chiama da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io son greco, però vivo a Firenze e seguo questa crisi da tutti questi anni. Però quello che mi viene voglia di fare, parlando con voi, è fare un commento sul ruolo che i media hanno in questa storia greca e di crisi. Quello che io noto spesso è che i media cosa fanno? Prendono la notizia, che poi alla fine è vera, perché non possono dire che non sia vera, però lo spirito che trasmettono sempre è un spirito 3-4 volte più esagerato. E questa strategia, questa mossa dei media fa sì che si crea un'immagine sulla Grecia un po' sbagliata, sembra che il paese sta per crollare, sembra che il paese, le persone stanno per morire, insomma ha un impatto che non è da poco e i media secondo me lo dovrebbero un po' valutare, non dico che non è in crisi la Grecia, sì. Però insomma siamo un po' più calmi quando trasmettiamo la notizia. Ha ragione, Yorgos, lei ha perfettamente ragione, ma se ha sentito la trasmissione dall'inizio è esattamente quello che abbiamo cercato di fare, cioè stiamo cercando di scremare le cose che si sentono in giro, o appunto la famosa leggenda metropolitana dei casi di malnutrizione dei bambini, dalle cose vere. Le cose vere però ci raccontano comunque una realtà di grande difficoltà e di grande tensione. Tonia Mastrobuoni, veniamo allo snodo che è quello che ci diceva, Marco, il tema dell'austerity. Sì. Perché la questione, qua non si vuole fare una puntata a tutti i costi contro l'austerity, però si vuole ragionare sugli effetti poi che ha dal punto di vista politico l'austerity. L'effetto è che ti trovi un'Alba Dorata al 7%, un partito di sinistra piuttosto duro, anche se non favorevole all'uscita dall'euro come quello di Tsipras, che ormai è il primo partito e si prepara a dare un'altra botta all'attuale governo. Insomma, bisogna ragionare anche in questi termini, se no e poi ricadiamo sull'Italia, perché vedo che ci sono altri ascoltatori che giustamente di questo vogliono parlare, perché insomma i segnali sono abbastanza simili. Tonia. Sì, fammi fare però una piccola premessa proprio sull'informazione. Il mio giornale La Stampa mi ha mandato 8 volte in Grecia in questi anni, ne sono felicissima perché mi hanno dato l'opportunità proprio di scremare tra notizie vere e false. Non ho mai scritto dei bambini, come non ho mai scritto di un paese sull'orlo della crisi, perché anche questo si è letto, sull'orlo della crisi, della guerra civile, come si è visto in queste settimane. Però devo dire che questa lagna continua che mi sento fare del fatto che i giornali italiani non seguono la Grecia non è affatto vero. La stampa ha seguito la Grecia sempre, nel mio piccolo ho cercato sempre di fare una cronaca puntuale delle cose che accadevano, sono stata a tutte le grandi manifestazioni. Anche il Sole 24 Ore, va detto. Esatto, anche il Sole 24 Ore, ma anche Repubblica, anche quella della sera, cioè tutti i giornali hanno seguito pedissequamente questa crisi greca, e noi scriviamo di queste cose dal 2010-2009, insomma, quindi vorrei anche che si smettesse un po' con queste lagne, perché è veramente insopportabile, leggessero i giornali e vedessero davvero com'è la cronaca della Grecia. Quanto all'austerity, dunque, sapete che c'è questa famosa discussione sui moltiplicatori fiscali, semplicemente sugli effetti che fanno le misure di taglio alla spesa, di aumento delle tasse sull'economia. Nella teoria economica finora questo moltiplicatore era messo a un punto, mettiamo 0,5, adesso si sa che in Grecia questo moltiplicatore è arrivato a 2, cioè per ogni euro che tu tagli hai appunto un effetto moltiplicato per 2 negativo sull'economia. Allora questo è un fattore gravissimo ovviamente, perché questo significa che tutti questi calcoli che sono stati fatti per migliorare l'economia greca sono calcoli sbagliati, l'economia greca si sta impantanando sempre di più. La Troica, l'hai citata tu poco fa, è andata adesso ad Atene e chiederà altri 25.000 esuberi quest'anno. Se saranno fatti questi 25.000 esuberi, e giustamente la Grecia si oppone a questo taglio ancora ulteriore, perché sono state già cacciate 75.000 persone dal settore pubblico, e avremo di nuovo un altro crollo dei consumi, eccetera, eccetera. L'austerity sta semplicemente massacrando gli stipendi e il costo della vita dei greci, questo è diciamo la pura realtà, nel senso che gli stipendi pubblici e privati sono stati tagliati, lo diceva anche prima lo scrittore Mamalukas, del 30-40-50%, a fronte, voglio ricordarlo, di prezzi che sono europei. Quindi i greci quando vanno a fare la spesa hanno il problema di avere un prezzo, come dire, ma anche la benzina costa 1,7 esattamente come noi. Tu citavi prima il fatto che non c'è più traffico ad Atene, e ci credo, ma chi è che può permettersi un 1,7 al litro con uno stipendio di 500-600 euro? L'effetto politico di tutto ciò, e chiudo, è che il quadro, questo bipolarismo che esisteva dagli anni 80 in Grecia, no? Cioè da un lato c'era un grande partito socialista che era il PASOK e dall'altro un grande partito conservatore che era Nuova Democrazia, è stato completamente stravolto. Completamente, non esiste più destra e sinistra in Grecia, esiste un fronte di partiti che si è impegnato a mantenere questa linea del rigore in Europa, con l'Europa, ed è adesso è anche un fronte di grande coalizione, no? Che sta governando ormai da credo quasi 2 anni, se non sbaglio, insieme, una sorta di eterno governo di emergenza, e dall'altra parte c'è un'opposizione che ha fatto dell'avversione all'austerità il suo principale punto di programma. Questo sconvolgimento del quadro politico noi dobbiamo stare attentissimi, perché si sta propagando nel resto d'Europa, cioè i due partiti principali in Spagna, no? Anche lì bipolarismo quasi perfetto da decenni, anche lì quindi i due principali partiti in Spagna stanno avendo insieme nei sondaggi neanche il 50%. In Italia sappiamo che il bipolarismo imperfetto adesso è un tripolarismo, perché Grillo in qualche modo ha fatto della questo è stato un voto anti-austerity anche in Italia. Quello che voglio dire, dopo che ci siamo tutti impegnati a questo benedetto fiscal compact, che è giusto, perché era giusto riequilibrare i conti, cioè la Grecia aveva un'economia totalmente gonfiata da una bolla, la bolla delle Olimpiadi, e da finanziamenti, da clientele enormi, da un tasso di evasione fiscale gigantesco e evidentemente difficile da sradicare. Allora, ora che ci siamo impegnati tutti in questo fiscal compact, in questa convergenza su una linea di rigore nei conti pubblici, giustissima, ma dov'è la solidarietà? Doveva essere la seconda fase, no? dell'integrazione europea. Abbiamo visto che invece, anche guardando l'accordo che si è raggiunto sul, per esempio, sul bilancio europeo, che questa solidarietà non si vede neanche all'orizzonte. Cioè Angela Merkel dovrebbe capire, secondo me, che se lei non comincia a mostrare un minimo di comprensione per quello che sta succedendo, beh, questa rischiamo veramente di lasciare, come dire, di lasciare macerie ovunque in Europa. Cioè, se vogliamo davvero mantenere l'euro, dobbiamo anche procedere a questa appunto fase B, una fase in cui, avendo tutti assunto degli impegni sulla, sui conti pubblici, sul riordino delle finanze pubbliche, possiamo anche intravedere un futuro in cui appunto ci sia più solidarietà o sotto forma di messa in comune dei debiti, eurobond, eccetera, eccetera, comunque di un maggiore impegno anche sul fronte della crescita, un impegno comune, perché se non cambia la politica europea, quest'onda che partì dalla Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Italia e che sta in qualche modo stravolgendo tutti i quadri politici rischia di non fermarsi più. Mamma Lucas, quanto la sentite questa assenza di solidarietà? Perché poi molto si concentra sulla Germania, naturalmente, perché sono i grandi custodi di questo rigore finanziario, ma poi in realtà quando si è trattato di chiedervi sacrifici non è che sia mancata l'unanimità in Europa, insomma, sono tutti stati d'accordo. Guarda, io spero che la Troica non arriverà in Italia, questo le dico solo. Sono d'accordissimo con quello che ha detto la signora Mastroboni, mi sento che qua in Grecia siamo come un grande esperimento, cioè segui il Portogallo e chissà chi ancora. Non so, abbiamo fatto sacrifici per restare nell'euro. Spero che non ci cadremo nella dracma dopo che abbiamo fatto tutti questi sacrifici. Per quanto riguarda la Germania, che ne dico? Non lo so, loro fanno il loro lavoro, è tutto matematico, sono, diciamo, senza, non dico che hanno dato qualche pietà di fronte alla Grecia. Questa è la mia opinione. Giardina, siete dentro un grande esperimento? Direi di sì, ma non tanto esperimento, è la politica europea che ci guida a questo tipo di economia. Come io sono d'accordo perfettamente con l'austerity, uccide il mercato, si vede, chiudono i negozi, chiudono piccole e medie imprese, la gente, cioè il mercato si muove dai poveri, non dai ricchi, cioè il mercato, soprattutto qui in Grecia, il mercato e l'economia funzionava da questa grossa, da questa enorme struttura che era la struttura degli impiegati pubblici. Gli impiegati pubblici erano quelli che muovevano il mercato con le spese. Se tu tagli la tredicesima al lavoratore, è ovvio che i negozi chiudono, cioè, voglio dire, non so se è un esperimento, comunque è un tipo di economia che si adatta ad alcuni paesi europei e non ad altri. 9 in punto. Ci scrive Umberto su Twitter: l'austerity è l'unica soluzione se fatta bene globalmente e su basi sane, però l'austerity è sabotata per demagogia politica. Non ho capito esattamente che cosa stia dicendo. Ci scrive Antonio: l'austerity è utile per far saltare le aziende e farle acquistare a due soldi a players europei in espansione. E poi ancora qualcuno che polemizza sul tema del PM10 e su se tecnicamente il PM10 ad Atene dipenda dal fatto che si brucia legno oppure no. Francamente a questo punto non so che dirvi, insomma. Sentiamo Emilio che ci chiama da Milano, buongiorno. Mi chiedevo, allora a questo punto noi abbiamo avuto fortuna ad avere uno come Grillo, rispetto a quello che avete appena finito di dire, che ha catalizzato attorno a sé dei voti e una percentuale di votanti che non è, come dire, che ha le idee di Alba Dorata, insomma, primo. Secondo, un'altra cosa, mi viene una riflessione, ma per anni la Grecia è stata foraggiata dalle banche tedesche, francesi, anche inglesi, per potergli fare acquistare dei prodotti, delle cose che erano quasi obbligati ad acquistare. Io ti presto i soldi, tu i sistemi d'armamenti che non so che cosa servissero, a dire, no? Cioè, allora questa cosa a chi è da addebitare? Al popolo greco o alla classe politica che ha dominato quella nazione, o anche al mercato, al cosiddetto mercato che sta utilizzando la Grecia. Avete detto voi, ha fatto bene, la giornalista della Stampa è stata precisissima, questa Europa fatta dai mercati, fatta dalle banche, che ci ha ridotto, fortunatamente l'Italia è un'economia non agricola come quella della Grecia, e loro sapevano benissimo, e mentre invece noi abbiamo fortunatamente un'economia molto forte da un punto di vista industriale, però faremo la stessa fine se andiamo avanti così. Bisogna ridiscutere il debito, basta. Grazie. Questa la sua idea, naturalmente come tale la prendiamo. Arman ci chiama da Trento, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo, è stato interessante, condivido quello che ha detto appena adesso l'ascoltatore Emilio. Per me la crisi greca è stata creata ad hoc, nonostante ci siano le colpe dei greci nell'aver truccato i conti, ma questa truccare i conti è stato con il consenso della banca centrale e delle banche tedesche, che avevano investito miliardi in prodotti finanziari. Il problema dell'austerity si è rivelato solamente un bluff, e questo mi ricorda questa continua cantilena anche da parte del Presidente della Repubblica all'indomani delle elezioni: dobbiamo tranquillizzare i mercati, vediamo cosa dicono quando aprono lunedì. E anche lo stesso Monti propone ricette in stile reganiano e thatcheriano, che andavano bene negli anni 80, quando una delle prime bolle finanziarie non era ancora scoppiata, ma adesso no. Il problema è che secondo me bisogna ridiscutere il rifinanziamento del debito, e anche, al contrario di quanto diceva la giornalista, bisogna riguardare e riflettere sul fiscal compact e anche sul trattato di Lisbona, che va a incidere enormemente sul principio di sovranità nazionale, che è uno dei principi cardini delle costituzioni europee, e secondo me non è una cosa da poco, visto anche gli ultimi sviluppi con Alba Dorata, con i vari movimenti cosiddetti populisti, perché quando si parla di persone che protestano per la loro sopravvivenza a discapito magari delle speculazioni finanziarie, non si può parlare di populismo anti-europeo o così, lì si parla di dignità delle persone e anche della stessa vita. Grazie Arman. Insomma, i punti che ha evidenziato sono tanti. Innanzitutto una breve risposta ad Emilio, se non erro, che è l'ascoltatore che ha chiamato prima. La questione è se Grillo è stato un argine ad eventi politici diversi, come per esempio in Grecia è stata l'ascesa di Alba Dorata o altre cose di questo genere. In realtà è quello che ha sostenuto lo stesso Grillo in un'intervista, se non sbaglio, di qualche settimana fa, forse a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, nella quale diceva esattamente: dovete considerarvi fortunati, perché il fatto che ci sia io vuol dire che non ci sono i nazisti. Tonio Mastrobuoni, quasi a specchiare la situazione politica italiana e questa quantità enorme di voti per il Movimento 5 Stelle, ne abbiamo beccato due ascoltatori che in fila ci hanno detto: bisogna rinegoziare il debito. Sì, no, infatti questa è naturalmente questo è secondo me anche l'unica soluzione per la Grecia. Abbiamo già rinegoziato una parte di debito l'anno scorso, ricordiamolo, sono stati appunto i privati, le banche eccetera, a rinunciare a 100 miliardi, questa è un'altra cosa che non viene mai ricordata. E adesso è ora anche che il settore pubblico, o meglio che gli altri paesi, si accettino un taglio del debito. Questo mi sembra l'unico esito possibile. Naturalmente in prospettiva per l'Italia sarebbe una soluzione molto più complicata, perché noi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico e quindi io penso che una ristrutturazione del debito italiano sia un'operazione molto più complessa. Io invece credo che e anche in questo, vuol dire, si dicono un sacco di sciocchezze. La sovranità nazionale, dunque, se noi pensiamo, uno può credere due cose: o che si va verso un'integrazione europea maggiore, e allora naturalmente è giusto, ripeto, rimettere a posto i conti, è giusto anche in una seconda fase però mostrare più solidarietà, io penso per esempio andando verso gli eurobond, rinegoziando una parte di debito per quei paesi che davvero non possono più sostenere questa austerity, eccetera eccetera. Altrimenti uno dice: si torna alla sovranità nazionale, però significa che cosa? Rinunciare all'euro, e ridurre le economie nazionali in un primo momento come dopo una guerra, perché ovviamente rinegoziare l'euro vuol dire, cioè rinegoziare uscire dall'euro significa sostanzialmente creare una situazione economica devastante, perché tornare alle monete nazionali non è affatto un'operazione semplice, è un'operazione che anzitutto appunto crea delle condizioni economiche estremamente difficili. Questo lo dicono un po' tutti gli studi che si sono esercitati su questa su questo scenario. Naturalmente è uno scenario che è del tutto ipotetico, questo va detto, perché l'euro è un esperimento e diciamo con tanti difetti, lo abbiamo visto, stiamo vedendo, però quello che credo io è che nel mio piccolo, che bisogna andare verso una maggiore integrazione, ma se non si mostra un minimo di comprensione per il, come l'hai chiamato tu e lo chiamano molti ormai, il disastro umanitario che sta succedendo in alcuni paesi periferici dell'Europa, non ne usciamo, e prima o poi salta anche l'euro, secondo me, se andiamo avanti di questo passo. Quindi, massima attenzione, noi chiudiamo qui questa puntata. Un grazie a Tonia Mastrobuoni, giornalista della Stampa, Fabio Giardina, medico italiano in Grecia, Dimitris Mamaloukas, scrittore greco. Grazie a tutti voi per essere stati ospiti di questa trasmissione, che potete riascoltare, vi ricordo naturalmente, come sempre, in podcast, il nostro sito www.radio24.it. Visitatelo, rinnovato da poco. Grazie Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. 9 in punto.